fare un YouTube di cose, abbiamo finito. Infatti abbiamo finito oggi di chiudere e tappare e lunedì si fa il resto. Non l'ho sentito proprio io ieri sera. Tra Ducosio, Gianfranco, ma 5 minuti e poi è venuta gente, ho dovuto accertarmi e non lo sono entrato più, dai. Infatti io pensavo che fosse il trattore, magari mi chiama e non posso rispondere perché avevo spento. Si vede che non è entrato mancare in malattia, e aveva sempre apparato un muro, un marchiglio, se no sarebbe entrato. Cosa vuoi che ti dica? Boh. Attenzione signor Battisio, sono andato avanti, no, non entro. Ecco cosa vuoi fare, vuol dire fare qualche cosa, vuol dire che è impegnato. Noi l'impegno l'abbiamo terminato ed eccoci qua, chi vuole entrare entra, chi no lo lascio. andiamo. E allora, cosa vuoi dire? Certo che se uno è impegnato, è chiaro che avete fatto, date l'impegno, ma a farvi dare a chi non sarà attorno. L'impegno magari non l'abbiamo e siamo entrati o no? Oh, io l'ho acceso alle 7:15, mi vedo non verrà nessuno, ho sempre già meglio, non mi rispondeva nessuno. Andate. Era acceso qua, però ho abbassato il volume perché c'era gente loro in cucina, capito? Ma voi se ne andate, che entrate già sta giù riposo. Andate. Chi vuole entrare entri, se no si rimanga. Oh no! Allora gli pure il apparato. No, io infatti sera non sono uscito dal suo posto. La mattina mi ha fatto un giro. Sono andato a Bricco, sono andato a Coso, a Mettigiamma, a quello che vende la roba usata lì di fronte alla piazzetta. Lì sono entrati per farci entrare latte e da voi mi sono rientrato. Tanto mi ha ammazzato la lì, capito? Ma per un caso in macchina. Purtroppo le ore di punta sì, la mattina adesso che dalle 9 in su che scalda. Infatti, grazie, ha fatto un gaggio di burro. Vabbè. Che da voi hai fresca, da voi per il burgaglio, non siamo mai contenti. Purtroppo no. Canno peccato, canno per freddo la matta cigosa. Allora, non siamo mai contenti. Fate caggio, voi un freddo, fate freddo, voi un gaggio. Ma insomma, Salvatore non si può accontentare a tutti, capito? Purtroppo sì. Purtroppo è così. Com'è la radio? Buona? Sì, è limpida. È chiara pure. Meglio così, va. Meglio così. Sembra che sia andato tutto bene, tranquillo. Uno di stazionarie. Siamo tranquilli. Cazzo, già era ora. Andiamo. Ma lavoro abbiamo fatto sto, dai. Ci voleva dopo tanti anni, cazzo. Dopo tanti anni l'abbiamo fatto il lavoro come si deve. Sì, fatto bene. È così, nato che più. Attento signor Bacchisio. Alla gara dico. Boh. Chissà cosa sarà con Mirende, gatta. E lui gatta. Piccolese si già vede, Uga, per carità. Purtroppo. Ci ha impegnato con qualcuno. Cara campagna a Buruga, non so chi io. Boh. Senti da vedere, senti sapendi, senti sapendi. Purtroppo è così. Vuoi entrare? impegnato con Cacu. Beh, sai, se no sarebbe entrato così. Cosa aveva? Pacciccia, vivo pacciccia e basta. Infatti mi ha detto da Franco arrivare, tutti i pariti di Zizou. Sono tutti pariti, non è più nessuno. Dice, io gli ho provato di nuovo a cedere, mi ha risposto tu. Dice, no, non verrà manco un'arma in luogo. Tutti si sono ritirati, si sono. Ma, quindi non hanno più gare, sono attaccati. E a chiamargli per il telefono, il computer. Ecco, quello si svagano più bene, capito? Allora, tu baracchino magari cade se va a mettere, può darsi rassegnare. Sì. Ma, cosa deve fare? Purtroppo è così. Tiriamo avanti. Si vuole andare avanti, no. Se per me è buco. E allora? Entra però alla sorte nera, raga. Dai, se non do capo cinnanda. Evidentemente sa anche lui, capito? Non ce la fa nemmeno a parlare, stanco. Vuol dire che fa cugnuso. Oh, addirittura. Quando mai fa cugnuso che ci butto, non credono. Vero, i fricca io. Pecciolai, non la gara, no. È stanco. Così che non avete finito il tono? No, c'è solo da tamponare e a lisciare e basta. Non c'è altro da fare. E allora, la settimana entrante, allora domani, non si lavora che sabato, anzi domani è domenica. E lunedì, una mattinata penso che sia finito tutto. E allora si è tranquilli, va. Fino a lunedì, almeno c'è una cosa finita, fatta bene e tutto va bene. Infatti una cosa finita e poi si lascia in chips. Eia. Sì, così è. Che abbiamo fatto un lavaglio di farlo e basta. Perché specialmente il governo Montanti, certo, se non sono fatti bene, non sai come ci sono. No, io se l'hanno fatta vera. Mi dubbia se fossi vero, hanno provato da rimane a oggi. Perdita non ce n'è, troppo bene. C'è un rumore. Un rumoraccio, chissà cos'è. Oh, signor Battisio! Tornato vicino un picchio io, entra però! Qua del monte? Sei qua del monte? No! No? Non le parliamo di notte? Sono stato a poccia delle femmine! Ehi, come si può entrare, entra, se no si sa che si tratta in gallo due! Oui! E non rispondi, no? Vedete, la gente che fa cugnuso a entrare, non rimbiati, devi lasciare la mia metà. Ma noi siamo di casa, per cui vuoi entrare tranquillo, alla vera, dico. Per carità. Vabbè, detto là, chiudo. L'altro, ma chi sono l'entra? Mamma, è una delusione, diciamo la volta. Io non sto rompendo, non intende, ma una delusione, per cui ne approfitto e chiudo là. Ci sentiamo domani, buon proseguimento, saluto in casa. Si entra a Bacchisio, salutamelo. E si ho pazienza, lo sentiamo l'altro giorno. E salutiamo a Iu, se ancora in ascolto. Vabbè, ciao Gian Maria, ci sentiamo alle prossime, ok. Se tutto va bene. Ciao Gian Maria.